Ascolti di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Barcelona, Barcelona. Se facciamo solo il modo di difendere tutta la partita la perderemo. Per tenere il nostro destino nei nostri piedi sarebbe giusto di dire dobbiamo vincere qua. Se entriamo in questo campo dicendo già in testa che abbiamo perso, non serve entrare. La squadra sta bene sul piano psicologico, anche se è frustrata del pareggio a Bologna. Rincorsa brevissima, un passo, Neymar, tiro, Szczęsny, Adriano, rete, rimetti a lui, incredibile, incredibile, 6-0, Adriano. Questo risultato di questa sera e soprattutto la performance del Barcellona alza ancora di più la partita d'andata e il risultato d'andata. Barcelona. Ho potuto risparmiare Daniele De Rossi, ho potuto risparmiare Rajan El Golan, questi due erano sotto diffida, allora le avremo per la partita decisiva. Ho tolto Florenzi che aveva molto giocato molto, abbiamo risparmiato Pjanic, alla fine delle cose positive ci sono almeno un po'. Barcelona. So, se dite che sono un po' bastardo dentro, avete ragione, perché impietoso Garcia prima della partita, il sesto gol del Barça, Garcia dopo la partita che dice ho fatto turnover, rivalutiamo il risultato dell'andata, eccetera. Rumore degli specchi sui quali si prova ad arrampicarsi. 800240024, io saluto come sempre Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va? Come mi senti? Ma meravigliosamente. Non sentirò altrettanto bene Luca Telese, che è reduce dal Camp Nou. Ciao Luca. Aia. Dove sei? Ma eri allo stadio, Luca? Sì. Ero allo stadio nel terzo anello, praticamente più vicino alla luna che al campo. E fra l'altro con protocollo 6 siamo stati perquisiti anche nelle parti intime. E l'impressione di questa veduta aerea, oltre che della serata, è devastante. Sono arrivato a Roma alle 4:30, manco se fossi stato in guerra. Senti, oggi è davvero difficile difendere la Roma, che pure conserva, visto l'1-1 tra Bate Borisov e Bayer Leverkusen, a testimonianza di un girone che insomma non è impossibile. Lascia stare Barcellona, che è un'altra cosa. Conserva intatte le possibilità di andare alle 16, come dicono gli americani, della Coppa dei Campioni. Ieri però ha subito un'umiliazione fisica e morale, secondo me. L'umiliazione sicuramente, però il tuo tentativo di killeraggio nei confronti di Rudy è proprio senza senso, nel senso che è un dato economico. Se a Roma passerà il turno, conterà aver passato il turno, non come, ovviamente. Però c'è, è vero che un allenatore deve caricare la squadra prima della partita e deve tenerla su dopo la sconfitta. Non ho capito cosa sarebbe stata l'alternativa. Che Garcia dicesse entriamo in campo già sconfitti? Non credo. E viceversa, ci sono dei segnali molto brutti per la Roma che arrivano da là, e io forse rimuginando mentre stavo al check-in alle 4 di notte mi sono fatto quest'idea: Garcia, con la rosa che ha, sta facendo un miracolo, nel senso che è una squadra che non ha un centravanti di riserva di Zeko, non ce l'ha, non ha un centrale difensivo di riserva dei due titolari, non ce l'ha, non ha un terzino, salvo il miracolo di Maicon che ha 35 anni, non ha un sostituto di De Rossi, salvo Keita che ha 35 anni e che sta faticando molto. Quindi diciamo così, con quello che c'è, Garcia sta facendo il massimo che si può fare, perché quello che c'è è poco. Poi il problema grosso dei top player non è che Messi e Ronaldo valgono quanto Cristiano Ronaldo o Neymar valgono 120 milioni l'uno per sbaglio, perché tu prendi Dzeko, dici che è Gesù, ma era una riserva di un top club, e poi Dzeko arrivato davanti alla porta in una partita in cui tu magari produci 4 occasioni al gol, ne sbaglia 3, compreso un rigore. Quindi, questo è il punto. Se Dzeko faceva 1-0, la partita cambiava totalmente. Una squadra molto stanca, che ha solo 11 titolari e poi ha dei rimpiazzi un po' così, e questo credo che sia un fatto che non si può discutere. Secondo me, se Garcia, gasandolo, come dici tu, arrampicandosi sugli specchi, vendendo per oro quello che purtroppo ha in bottega, che oro non è, se riesce questa squadra a essere a 3 punti dalla vetta e in Serie A, e giusto perché l'Inter ha avuto molta fortuna in una partita vicino complicata, passaggio del turno in Champions, tu dici ha fatto il massimo, vicino, no, quasi, cioè con il destino nelle sue mani, Luca, con un passaggio del turno, io ti ho ascoltato attentamente, soldi, sì certo, questo soldi, certo, poi alla fine guardi e il risultato, perché poi a gennaio forse se passi il turno questa Roma a chilometri zero e a business e a bilancio zero avrà i soldi per comprarsi una delle tre cose che gli servono, ma non ce le ha ora. Cioè Dzeko che sbaglia un rigore è una fotografia di ma Dzeko che lo tira, che... in quel, che lo tira in, anche in quella maniera e con quella faccia, voglio dire, io ti ho ascoltato attentamente, tu mi dici cosa deve fare Garcia, presentare una squadra diversa al di là della conferenza stampa prima e dopo e dei tentativi. Cioè, io non sono d'accordo sul fatto che stia facendo il massimo possibile con questa rosa. Pierluigi, tu lo sei? No, ma poi soprattutto che sento qualcuno in questa stagione dire che la Roma è scarsa o comunque che è un miracolo essere a meno 3 dalla vetta. Io penso, parlo tutti i giorni in questa radio, penso che ci siano squadre più forti, penso che il Napoli sia più forte e penso che la Juve sia più forte come valore della rosa, quindi non sono di quelli che dice la Roma lo può solo perdere, come forse in maniera scaramantica diceva Cruciani all'inizio della stagione, non so se lo dice ancora, non lo dice più. Detto questo, ieri, se mi passi la provocazione, è stata una grande serata per la Roma, che si è avvicinata clamorosamente alla qualificazione della prossima fase della Champions League. Dopo quel dono del destino che è arrivato da Borisov, c'era soltanto una cosa che non bisognava fare, che era quella che è successa. Cioè, se la Roma ieri sera avesse perso 2-0, 3-0, giocando una partita giudiziosa, accorta, oggi vabbè, anche un po' più cattiva, avremo, volendo, sì, anche un pochino più cattiva sicuramente, avremmo celebrato ancora una volta la forza del Barcellona, avremmo detto che però la situazione adesso è tutta nelle mani della Roma, che ha dimostrato nelle due partite con Bayer Leverkusen di essere più forte del Bayer Leverkusen. Secondo me delle squadre che ci sono in questo girone è comunque quella, è la seconda, per cui se non dovesse passare il turno sarebbe di tragico, secondo me, perché è più forte del Bayer Leverkusen, che è una squadra modesta, soprattutto dal punto di vista difensivo, ed è più forte del Bate. Detto questo, a me Garcia non è piaciuto, non mi è piaciuto soprattutto nelle dichiarazioni post partita. Io capisco che poi ogni allenatore abbia la sua chiave di comunicazione e i risultati li danno soltanto il campo, però ieri non si può venire fuori da quella partita lì così ad autoassolversi, la squadra si verifica una situazione. Adesso ci fermiamo per il traffico, che siamo già in ritardo, poi riprendiamo a discutere, che è molto interessante. Si verifica una situazione paradossale per cui Garcia si autoassolve e assolve sempre la sua squadra. Da lui non senti mai una critica nei confronti della sua squadra, le critiche arrivano dall'interno, e cioè anche in questo caso da Florenzi per la seconda volta e da Mike Connolly. Sentiamo subito dopo il traffico. Luca Telese e Pierluigi Pardo, state lì, 800 24 00 24, numero verde. Tutti convocati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta convocati. Ma non abbiamo fatto niente, abbiamo difeso per 90 minuti e così contro una squadra che aveva sempre palla libera, giocava sempre le spalle del difensore, è difficile. Abbiamo provato di fare qualche ripartenza, però non abbiamo fatto niente. Dico che 6-1 è stato poco, perché per quello che abbiamo lasciato era per prendere più gol. Impostava non correttamente, abbiamo preso dei gol e basta, adesso ci rimettiamo al lavoro, pensiamo positivo, nel senso che tante volte all'ultima partita stavamo già fuori matematicamente, oggi abbiamo il destino nei nostri piedi e sappiamo che se battiamo il Vatel Borisov siamo passati, tutti saremo contenti. Vediamo se la Roma riuscirà a battere Borisov, che a questo punto non mi sembra neanche una cosa semplicissima. Luca, non ti sorprende questa inversione dei ruoli? Ma intanto non lo so, c'è anche un senso della decenza, cioè Maicon era, cioè veramente lo dico con affetto e con grande stima del campione, ma non è l'uomo che ieri doveva fare le pulce, no? Cioè aveva uno dei più grandi giocatori del mondo, ma io fra l'altro ero sabato a Barcellona e ho letto tutta domenica i commenti dei quotidiani spagnoli, non è un attenuante, ma che dicevano come è possibile che un Real con una rosa da 2 miliardi di euro sia stato asfaltato con un 4-0 clamoroso. Cioè stiamo parlando del Real Madrid. Io non so se voi sicuramente avete visto la partita, non è che stiamo parlando di una squadra di pippe. Ora ci sono state, mi pare che sia stato contato, ci sono stati 25 tocchi prima di un gol, di cui 7 di prima. Non è un attenuante, perché la Roma non ha giocato come doveva giocare, però forse stiamo parlando in questo momento, con l'enfasi che bisogna contenere, di una delle squadre più forti del mondo. La e più forte in questo momento, la più forte del mondo in questo momento, però ha battuto anche 4-0 un Real Madrid che era è stato messo in campo in maniera assolutamente. Voglio dire una cosa: se tu hai due giocatori che giocando contro la squadra più forte del mondo sbagliano due gol a porta vuota, e sto parlando del tapen di Iago Falque e del rigore sbagliato di Dzeko e del colpo di testa che aveva, diciamo, non diciamo che era un gol fatto ma quasi, tu non puoi competere con i più forti del mondo e sbagliare occasioni da rete come questa. Siccome però, il problema però, è però Luca, però rimangono 16 gol subiti in 5 partite in Europa, non solo col Barça, anche il Barcellona, cioè che la Roma potesse fare gol a giovedì, a sentirti 1-0 è vero. Io ragazzi No, va via la comunicazione di tanto, ma vai, dimmi Pier, dirti che appunto il contro il è vero che hai avuto la palla gol per andare sull'1-0, ma questa palla gol l'hai avuta dopo che il Barcellona ne aveva avute 3 nei primi 10 minuti. Cioè la Roma poteva fare 3 gol ieri, ma il Barcellona poteva farne 13, cioè questa è la verità. Io penso che Real Barça sia stata è il classico, è una partita che è come un derby. Il Barcellona in questo momento è molto più forte del Real e l'ha asfaltato, ed è stata una partita con Real che ha provato nella storia. Sì, mai. Con Real che ha provato a giocarsela alla pari ed è stato preso a pallate. Ieri in quella situazione lì c'era una sola cosa da fare, lo so che non è semplice, era evitare questo. Certo, cioè, certo, ieri era evitare questo per le conseguenze che può produrre. Alle 20:05 la Roma poteva cominciare. Aspetta che prova a richiamarti. Prova a richiamarti Pierluigi. Allora, ma stiamo dicendo forse la stessa cosa, cioè nel senso io forse sono più severo con la Roma, ma in questo caso intendo con la società. Cioè con quell'organico, con questi limiti, con questa difficoltà di ricambi, con questi infortunati, è molto difficile sfidare la squadra più forte del mondo. Casomai mi dirai, perché il primo cartellino rosso l'ha avuto Van Kerr quando il Barcellona, appena uno prende palla ed è pericoloso, lo stendono? Perché va detto anche questo, cioè c'era poca grinta. Non c'era una colpa di Garcia e ci sono errori. Beh, ma scusa Luca, ma chi deve, ma abbiamo sentito anche i giocatori. Florenzi di nuovo torna a parlare di partita, l'altra volta aveva detto approcciata, questa volta impostata, però il senso è quello, impostata male. Allora di chi è la colpa se presenti una squadra così? Non può essere né tu né mia né di Pierluigi che è tornato, no Pier? Assolutamente. Se ci fosse stato De Rossi invece che Keita, la partita avrebbe avuto un riferimento, cioè una squadra che purtroppo perde i suoi 11 titolari. Non credo Luca, con tutto rispetto all'ammirazione per De Rossi, ieri hai giocato una partita contro la squadra più forte del mondo e mi ha fatto ripensare a quel tweet per il quale ancora oggi ho tutti i giorni preso per il culo da qualcuno sul fatto che la Juve aveva fatto la grande finale e dal punto di vista, diciamo, della prestazione sicuramente non aveva perso, perché aveva portato il Barcellona a dover fare una grande partita e aveva vinto alla fine di misura il Barcellona, no? Riuscendo ad essere in partita praticamente fino a un minuto dalla fine. Oggi il Barcellona è la squadra più forte del mondo, nessuno imputa a Garcia il fatto di aver perso a Barcellona. Non bisognava perdere così, perché questa sconfitta è una sconfitta che ti porta potenzialmente il rischio di un contraccolpo come esatto. Quello che la Roma ha vinto, ci sarà, ci può essere questo rischio, Pierluigi. Se perdevi 2-0 ieri, 2-0 ieri, o è una cosa chiara, è una cosa diversa, è la qualificazione facevi, in mano. Oggi facevi Caroselli dicendo vabbè adesso tocca al base, e attenzione perché poi è vero quello che dice Garcia, che poi a febbraio può cominciare una nuova competizione, che dice anche Luca, cioè a febbraio non è detto che poi da tutto Barcellona non lo puoi prendere, perché ovviamente è nel tuo girone. Poi ci sono squadre giocabili, la Dinamo Kiev potrebbe arrivare prima nel suo girone, il Benfica potrebbe arrivare prima nel suo girone, cioè comunque non è che parti battuto con tutte. Quindi secondo me è importantissimo per la Roma andare avanti dal punto di vista economico e dal punto di vista complessivo. La sensazione di impotenza però che ti comunica una serata come quella di ieri è enorme. Sì, ma soprattutto c'è il rischio effetto Bayern Monaco, secondo me a questo punto esiste, perché anche Luca Terese sa perfettamente che l'anno scorso quei 7 con il Bayern Monaco non hanno inciso tanto sull'immediato della Roma quanto sono stato lo spartiacque della stagione, e questo 6-1 somiglia tanto a quel risultato, a quella partita. Sì, sono Luca. Veramente qui c'è il fattore Barcellona, è un fattore unico, l'abbiamo detto, la squadra è più forte dell'anno scorso, e ripeto, tutta la Spagna per due giorni si è interrogato di come era possibile avere il risultato più clamoroso di vittoria in un derby. Però io non sto cercando le attenuanti, sto dando una responsabilità diversa. Cioè, mentre tutti qui, ma anche il tifoso del Bar, dicono ma Garcia non li carica, non gli strizza le palle, che è un po' quello che ha detto anche adesso Pierre, io penso che il problema sia: ma che cosa puoi fare se hai 11 titolari e quando te se ne rompe uno devi far giocare il centrale? Tu ieri a Barcellona non ho mai sentito. Allora, Conte in amichevole Italia-Romania, pareggia 2-2, pareggio che non cambia niente perché è un amichevole, ed esce incazzato come una iena e lo dice, bisogna buttare via il pallone, agghiacciando, abbiamo concesso, eccetera eccetera. Garcia in una partita sicuramente non doveva essere giocata su quel terreno, sono d'accordissimo col mister, però non può uscire parlando solo di questo e assolvendo la squadra, perché la Roma si porta dietro certe mollezze. Per me la Roma è forte, non è la più forte d'Italia, perché sono la più forte d'Italia il Napoli, ma è forte, potrebbe fare grandissime cose. In questo momento è anche limitata dalle assenze di Salah, Gervinho, Totti, De Rossi, tutto quello che volete. Però finché si continua ad autoassolvere, come è successo per esempio a Bologna, quando tu si fa una cosa assurda. Il problema è questo, secondo me, il problema è questo, perché sennò vai avanti con le autoassoluzioni in ogni caso. È fortissimo, ma con una difesa così alta col Barcellona è normale? È normale concedere sullo 0-0 tre palle gol nei primi 10 minuti in campo aperto? Ma non è... che sono i più forti al mondo, ma forse il Barcellona devi provare a saturarti un po'. Devi provare è chiaro, stare chiuso in 30 metri e provare a ripartire. È ovvio che non hai Gervinho e Salah di ripartenze, quindi sei sfigato. Però almeno puoi provare a limitare i danni. Ma non dimentichiamo che la Roma, i 4 a Leverkusen, l'avvio di secondo tempo con lo stesso Bayern Leverkusen. Luca, non puoi prendere 16 gol in 5 partite in Europa. Gol in 18 partite in stagione. Io sto dicendo che la Roma in questo momento non ha una difesa, perché ha due centrali, di cui uno non forte, che è Rudiger, è un centrale abbastanza mediocre, e ti devo dire che avrei tenuto 100 volte Gambingua. Se gli vendono dei giocatori che sono almeno rodati e pigliano delle incognite e non funzionano, che cosa può fare Garcia? Può togliersi la toga, buttarla e dire me ne vado? Sta stringendo i denti per arrivare a gennaio, perché poi questa squadra ha dei talenti pazzeschi, ma se gli togli la sua forza che è l'attacco, cioè i due attaccanti titolari, uno dei quali gli era stato venduto, cioè ricordiamoci che Gervinho gli era stato venduto quest'anno, è un trucco la cosa dell'aereo, degli sceicchi che non l'hanno voluto. Gervinho era stato venduto per volontà della società, anzi svenduto, e ora si rivela un attaccante sostituibile. Toglili quei due, mettici dei giocatori che sbagliano dei gol fatti per l'emozione, per quello che ti pare, ma dimostra di non essere top player. Hai la differenza fra il Barcellona, che è forse in questo momento la squadra del millennio o del secolo, e la Roma, che è una squadra in cui si fanno miracoli con quello che c'è, con dei buchi. Devono arrivare a gennaio e devono riuscire a mettere su una difesa. Questo è indubbio, che alla Roma serve un centrale e un laterale destro, su questo non ci sono discussioni. Mi domando se possa bastare. Luca, ti ringrazio, ci sentiamo presto, perché è sempre molto interessante. Grazie Luca Terese, è sempre divertente parlare con Luca Terese, almeno io lo trovo divertentissimo, anche Pardo, credo. Assolutamente, c'è la passione, c'è la passione, anche qualche volta una sana mancanza di obiettività. Io ti dico che l'equilibrio secondo me è quello di dire, non è che Garcia sia diventato un allenatore, una ditta, non è che è un allenatore scarso, per carità, non lo è, perché se no non avrebbe ottenuto comunque una crescita della squadra in questi due anni. Sai, per lui ha costruito una squadra meravigliosa il primo anno, meravigliosa. Il punto è capire se questo allenatore e questa squadra sono pronti per fare un salto di qualità. Esattamente. Perché a Roma, esattamente, secondi posti, esattamente, imprese esattamente, fiorate, ne hanno le tasche giustamente piene. Fermiamoci un attimo per la borsa. Fausto da Torino, Damiano da Roma, state lì, siete i prossimi cui passerà la palla. 800 24 00 24 per intervenire. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta Tutti Convocati. Parte in cross. Attenzione, tira al volo, rete! Che gol! Ancora il pistolero Suarez! Eccezionale Suarez, 3-0. Barcelona, un calor che mi deja. Forse la Roma è arrivata nel migliore momento della nostra stagione, fino adesso. È sempre difficile giocare qua, contro noi, e se la squadra sta facendo benissimo è sempre difficile giocare qua. Ma noi dobbiamo ancora pensare che l'inizio della stagione manca tantissimo e ancora ci sono cose da migliorare. Una grande soddisfazione sapere che non hanno bisogno del nostro risultato perché la Roma classifiche, e così non c'è nessuna pressione, nessuna cosa a rimproverare. E noi faremo la nostra partita, non so chi giocherà, ma cercheremo di vedere che calciatori possono giocare e andremo a vincere la partita senza nessun dubbio, perché quella è la filosofia da questa società e sicuramente vedremo una bella partita. Però ovviamente Luis Enrique, mi resta la sensazione condivisa, mi pare da Pierluigi, pare che la Roma sia squadra femmina. Se giochi poi contro il maschio alfa del mondo, la differenza è questa, diventa l'amichevole del martedì, sì, che e vedi neanche, gli avversari andare in porta cinque volte con dentro la porta cinque volte con il pallone, dei quali uno ha annullato il primo a Messi. Che non è neanche tanto un maschio alfa, poi la squadra che addirittura potrebbe essere più cinica, forse addirittura il margine di miglioramento del Barcellona, ammesso che ci sia, è questo. Ma no, ma io ti ripeto, secondo me ieri è stata, se ti passi la provocazione, è una grande giornata in prospettiva per il futuro europeo della Roma, perché credo quello che è successo a Borisov non fosse assolutamente scontato. Certo. E adesso la Roma è riuscito il miglior risultato possibile, perché la Roma si qualifica battendo il Pate e pareggiando se il Barcellona non perde alle Leverkusen. Quindi insomma, veramente ha una situazione adesso... Poi ecco, se perde in casa col Bate, allora a quel punto di cosa stiamo parlando? Decisamente migliore condizione di quella della Juventus attualmente, in questo preciso momento. No, la Juve secondo me è in una condizione migliore, però sono tutte e due, cioè da ieri sera anche la Roma è iscritta a la Juve oggi, se il Siviglia non vince a Gladbach e passa di Gladbach in questo momento fuori casa, non è così scontato, la Juve basta un pari, al di là del fatto che la Juve scenderà in campo per vincere. Io penso che un conto però è la teoria e un conto è la pratica, cioè al di là del fatto che ieri appunto sicuramente la Roma ha fatto un passo avanti per la qualificazione, c'è un discorso di immagine internazionale, di autostima, di atteggiamento, e ieri è stata un'umiliazione enorme, perché si fa presto a dire che il Barcellona è la migliore squadra del momento, lo sappiamo tutti, lo sappiamo perfettamente, lo sapevi anche prima e dovevi nei limiti del possibile giocare una partita diversa, ma anche più cattiva, ma chiaro poi, più no? Cattiva, ma anche perché una squadra di maschio a un certo punto gli fa capire, magari con le buone, magari con le cattive, ragazzi, fate i bravi. Questi ridevano, ma hai visto come sono entrati in campo nel secondo tempo Messi, Neymar e Suarez, ridendo a crepapelle, e c'era Piqué che è uscito con un sorriso largo così, scherzavano in panchina, Luis Enrique non si è mai alzato se non per applaudire i gol dei suoi, cioè onestamente li hanno presi in giro, se vogliamo. Fausto da Torino e Damiano da Roma, che sono lì da un pezzo e voglio sentire gli ascoltatori, che sono molti. 800 24 00 24 numero verde. Fausto, Buongiorno, grazie per la convocazione. Sinceri, meritati. Io premetto di non essere tifoso della Roma, però concepisco poco i toni un po' indignati, sdegnati, che invitano alla vergogna e quant'altro, sebbene la prestazione sia stata brutta. Mi stupisce però, su questo vorrei il vostro parere perché è più pertinente, gli imbarcati che arrivano nel caso della Roma risultano essere un po' costanti, intendo dire... Disfatte in Europa ne abbiamo viste tante da parte anche di squadre molto forti, Milan, la Juve, il Bayern stesso forse di Guardiola, sono squadre a fine ciclo comunque che facevano già intravedere nei loro campionati delle difficoltà, questa Roma non ha, perché questa Roma sta giocando comunque per lo scudetto, è una squadra... Sì, salute. Fausto, abbiamo capito il concetto, non la sento benissimo, però abbiamo capito. Sta giocando per vincere il campionato, però anche in campionato sono 15 gol subiti in 13 partite e sono molti segnali di debolezza che arrivano, perché, ma molti segnali di debolezza non solo sul campo ma anche nell'atteggiamento della squadra e nelle stesse ostinate difese del suo allenatore. Sentiamo anche Damiano da Roma, poi risposta cumulativa. Damiano, dica. Sì, buongiorno. Grazie per la convocazione. Io volevo chiedere una cosa, premesso che la sconfitta di ieri è stata una pessima figura, soprattutto per noi romanisti, ma con quattro infortunati come Salah, Gervinho, Totti e Conde Rossi messo in panchina per precauzione, Garcia che cosa doveva fare dopo che un quarto d'ora stavamo sotto di 2-0? Ci vorrebbe anche un pochino di onestà mentale. Lui ha visto, è stato consapevole della propria inferiorità e lungimirante, visto il ciclo di partite che ha la Roma da fare, e ha tirato fuori quelle che doveva concentrandosi sulle partite che verranno. Premetto anche che la partita dell'andata, che è finita 1-1 col gol famoso di Florenzi, è stata criticata pesantemente da tutti quanti perché la Roma si è difesa troppo, ha fatto barricate e non ha mai giocato. Allora, che cosa si vuole? Damiano, non so chi siano i tutti quanti, non certo da noi. Non certo da noi, questo glielo do per sicuro, perché non lo penso neanche adesso e non lo pensa neanche Pardo. Non voglio interpretare il suo pensiero, ma l'abbiamo detto e ridetto. Mi sembra questo il discorso. Cosa doveva fare Garcia? Andare lì a prenderne 6? Doveva fare questo? No, presentare la squadra che con questo atteggiamento, al di là delle assenze, mi sembrano alibi. Nessuno discute la sostituzione di Nainggolan, giustissima, per evitare guai in quanto diffidato. Nessuno discute questo. Io dico che lui non è andato lì per difendersi, cioè non è andato lì consapevole dei limiti. Perlomeno, magari lui ci sarà andato, ma la squadra non sembrava. La squadra che concede 3 palle gol in campo aperto nei 10 minuti. Che stiamo parlando? Poi, per carità, non è facile, ribadisco, la teoria è sempre molto più semplice della pratica. Però dico pure che io non ho visto l'atteggiamento di una squadra che è scesa in campo consapevole dei suoi limiti. Ho visto l'atteggiamento di una squadra invece che è scesa in campo provando a giocare la partita, che da un punto di vista poi tecnico poteva anche starci, perché sappiamo che pareggio e sconfitta grosso modo sono la stessa cosa. Sì. Ma non è pensabile che tu possa avere la difesa così alta col Barcellona per 90 minuti. Pareggio e sconfitta sì, pareggio e umiliazione no, perché non sono nemmeno d'accordo sul fatto, ma tanto la Roma corre per il campionato, quindi va bene fare turnover, va bene andare lì e prenderne 6, perché io sono curioso di vedere Roma-Atalanta domenica e quali saranno gli effetti su questa partita. La Champions c'è una cosa strana, non bisogna, è chiaro che la Roma dire oggi che possa lottare per arrivare in semifinale di Champions no, sembra fantacalcio, viene da ridere. Però la Champions, lo sappiamo, è una competizione divisa in due parti, dove l'unico obiettivo nei primi 3 mesi è passare il turno, cercare di non essere troppo sfigati al sorteggio. Questa è la verità. Poi c'è il mercato, ci sono i cali di condizione magari di altri e i miglioramenti. È ovvio che col Barcellona non te la giocherai mai, probabilmente nemmeno con altre 3-4 squadre. Allora può fare un percorso europeo. Questo è l'approccio nazionale, quello della squadra che deve fare un percorso europeo. Poi è ovvio che mentre il campionato puoi anche pensare di vincerlo, la Champions no. Però la Champions è importante nei processi di crescita. Certo, ma poi soprattutto, ripeto, ci possono essere gli effetti della Champions sul campionato, che è il tuo vero obiettivo. Allora abbiamo la borsa e poi andiamo subito in Spagna da Filippo Maria Ricci, che ieri sera era a Camp Nou, e sono curioso di capire qual è l'effetto che gli ha fatto la Roma, perché è abituata a vedere ovviamente il Barcellona, la Roma un po' meno, magari parametrandola alle normali avversarie del Barça. Sono curioso di capire quale impressione ne ha avuto. Strade, tutti convocati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presento convocati. Allora, Filippo Maria Ricci, lungo preambolo prima del traffico, che leggimi in controluce la partita alla Roma. Beh, per me è stata una sorpresa, come dicevi tu, io non la vedo tanto la Roma, vedo sempre il Barcellona. E a me è sembrato che Rudy Garcia non conoscesse il Barcellona, non lo so, mi ha dato l'impressione che abbia preso sotto gamba da una parte, perché con questa storia che vale la sconfitta, non importa, è un'immensa stupidata secondo me, perché comunque invece da questa partita la Roma poteva trarre forza, perché se avesse fatto una buona partita al Camp Nou ovviamente, no, le cose sarebbero migliorate, diciamo, anche a livello così di psicologico. E poi proprio a livello tattico a me è sembrato un suicidio, però non è che tu dici, sai, sono andato a giocare contro un'oscura squadra del Kazakistan, ieri si divertivano su Twitter, la gente lo prendeva in giro Garcia dicendo che era come Paco Hemet, l'allenatore del Rayo, no? Che di solito viene lì, se la gioca sempre e poi prende sempre 6-7 gol. Però la Roma non è il Rayo Vallecano, e comunque anche nella fase offensiva non c'era niente, non c'era il pressing, hanno pressato per un minuto, forse un minuto e mezzo all'inizio, quando c'era Pjanic molto avanzato, che tra l'altro poi ha scavato un buco dietro, e la scelta degli uomini, il povero Keita, anzi potremmo chiamarla la romana, il povero Keita, cioè cosa faceva lì in mezzo? Era completamente superato. Non so, il pensiero che ho avuto io, e dico, non ha mai visto giocare il Barcellona. Sì, e l'altro giorno c'era anche tu, quando Emiliano Mondonico diceva, secondo me la Roma dovrebbe prendere il classico e non guardare il Barcellona, ma guardare gli errori che ha fatto il Real Madrid. La Roma ne ha fatti di molto peggiori, secondo me. Molto peggiori. Anche perché, ripeto, questi sono andati in porta 5 volte con la palla, uno annullato, gli altri 4 buoni, lasciamo stare gli altri 2 gol, sono andati in porta 5 volte con la palla, e queste cose non le vedi mai, cioè non ti capita di vedere neanche quando gioca il Barcellona. Poi Pierluigi, Messi che sul 5-0 va a stendere i turbi al limite dell'area avversaria, o Suarez che va a pressare sul 5-0, sul 6-0, 4-0, quello che vuoi, come un indiavolato a centrocampo, va a raddoppiare, cioè, su qualunque... ti fa capire un po' di cose, no? Anche guarda, su come puoi affrontare la partita. Mi è venuto in mente nel prepartita di ieri, su Premium, Arrigo Sacchi, che ha detto la Roma può giocarsela a 3 condizioni. Una di queste 3 condizioni era fare passi dietro e fare catenaccio, l'ha anche detto, insomma, come si dice una volta, catenaccio, per dirlo uno come Sacchi, che sappiamo che è proprio un no pasaran, un pedain del calcio offensivo, del calcio bello, del calcio estetico, vuol dire che è oggettivo questo passo. Tu non puoi, soprattutto in un momento come questo, presentarti col Barcellona senza niente. Ieri appunto non c'è stato pressing alto, e non c'è stato nemmeno però quella scelta di dare campo agli avversari e di chiudersi negli ultimi 30-40 metri e provare a ripartire, che certo, era l'unica cosa, cioè, diciamo, di tutti gli antidoti contro il Barcellona, è quello mediamente che funziona meglio all'inizio. Poi è ovvio che prendi 1-0 il 40esimo, è ovvio, non è che ti metti a difendere un 1-0 a 20 dalla fine, ma è un atteggiamento, diverso, ragionato, ma diverso. Il momento di partenza non può essere quello di ieri, dai. No, ma abbiamo pensato solo a difenderci, e uno viene da ridere e dice, pensa un po' se pensavano ad attaccare, cosa poteva succedere. Vi faccio sentire a te, a Filippo, invece, quello che ha detto Arrigo Sacchi, stesso luogo, stessa data, dopo la partita. Io, se fossi stato allenatore della Roma, sarei stato molto preoccupato, ma non proprio per il 6, ma per l'atteggiamento della squadra e per l'organizzazione della squadra in fase difensiva. Una squadra che era preoccupata solo di porre tanti giocatori dietro, ma senza mai sapere quando doveva scalare in avanti. Questo è quello che ha detto invece nel dopo partita Arrigo Sacchi. Filippo Maralici, secondo te Luis Enrique aveva qualcosa da dimostrare, o prendiamo per buone le parole, vabbè, vanno alla Roma, tanto non sono contento, fatto tanto male, no? Ho visto quelli del Barça che erano, voglio dire, giocano sempre così. Sì, giocano nella, guarda, nella conferenza stampa di Dani Alves, prima della partita, gli hanno chiesto, diciamo, e voi sul 4-0 al Bernabéu cercavate la manita, così, dice, guarda, questa è una cosa che ci ha insegnato Pep, Guardiola, dice: tu se vinci 6-0 vai a cercare il settimo gol, e rispetto all'avversario, è la vecchia cosa un po' all'inglese, può essere. Ok, possiamo accettarla o meno, però loro non gli interessa, giocano così, giocano per divertirsi. Io ieri li ho visti passeggiare, quello è un'umiliazione. In realtà secondo me il Barcellona ha spinto pochissimo, perché se Neymar comincia a puntare Maicon lo salta 10 volte su 10 e non l'ha fatto. Una, forse anche una forma di rispetto, no? Un vecchio simbolo della nazionale brasiliana, quello che vogliamo, però io ieri nel secondo tempo, per molto tempo, il Barcellona semplicemente faceva circolare il pallone senza nemmeno attaccare, e questo, la Roma è stata veramente scellerata. Cioè, io non so come si può presentarsi così al Camp Nou, poi tra l'altro c'era anche un sacco di romanisti, è venuta un sacco di gente. Non lo so, non c'è rispetto. E anche le dichiarazioni dopo la partita di Garcia, assurdo. Tutto assurdo. Alla romana, vabbè, no, non passa nada, per dire alla spagnola. No, ma no, non è così, non si fa così. Cioè, questa è una partita seria. Se la Roma, ripeto, poteva uscire dal Camp Nou anche rinfrancata in qualche modo, o difensivamente o tatticamente. Sì, quello, no? Che diceva, quello che ha detto Pardo, che condivido pienamente anch'io, no? Però non puoi dire: ma ha fatto turnover, tutto sommato non ci ha fatto tanto male, cosa prima vuoi fare? Prima o poi un messaggio lo devi comunicare. Bravo Piero. Prima o poi devi... non lo vuoi comunicare a Bologna perché sei arrabbiato. Va e bene. hai anche ragione a essere arrabbiato, perché non si doveva giocare sul terreno. Però non puoi, dopo queste due partite, uscire in quel modo. Secondo me non funziona e non credo che abbia neanche rafforzato particolarmente nella squadra. Poi i messaggi arrivano dai giocatori in maniera trasversale, e anche questa è una cosa curiosa, per chiudere con Filippo Maria Ricci, anche guarda, questa è una cosa curiosa. Maicon era sempre vergognato di questa partita, ma anche Florenzi ha detto la stessa cosa. Comunque Florenzi magari è un giovane così, ma è già la seconda volta, sì, in stagione. Esatto, no, dico si arrabbia di più perché è più giovane, però quell'altro è uno con esperienza, per tirare fuori quelle dichiarazioni, voglio dire, e lui lo sa, per quello ritorno al discorso di prima, lui lo sa che se Neymar lì lo poteva infilare come voleva, quei primi 9 minuti. Qui no, li vengono presi 3 volte con la palla alle spalle della difesa. Ma dico, ma cosa? Ma, cioè, lì l'allenatore non gli ha detto niente. Guarda, Filippo non mi stava ascoltando, perché penso che non mi sento la spagna, ma è esattamente quello. I primi 9 minuti, tu sullo 0-0, sullo 0-0 a Barcellona, contro il Barcellona, stai alto e concedi 3 palle gol in campo aperto. È una roba. Cioè, non lo so, le puoi concedere con tutto il rispetto contro il Carpi in casa, ti butti in avanti col Carpi e puoi concedere all'inizio un contropiede, no. Con tutto il rispetto per il Carpi. Io tipo tutte le squadre europee per scelta, abbiamo già discusso su questo quando le squadre italiane in Europa quando vengono qua, e dico, per me certo. È un'umiliazione quello che mi dicono, poi capite, è chiaro, perché ma come ne usciamo? C'è anche un calcio italiano da difendere, cioè, no, abbiamo appena riguadagnato un minimo di punti con la Juventus che arriva in finale in maniera miracolosa, e guarda, poi andiamo a fare queste figure. Ma la Roma è l'unica squadra che ha preso 6 o più gol in 3 partite di Champions, certo. Ne ha presi 16 in 5. Ragazzi, vi devo salutare perché ho GR. Pier, ci sentiamo con te, ci sentiamo, magari ci vediamo domani comunque. Tutto questo è il paradosso, che la Roma è in corsa su tutto. Sì, corso su tutto, naturalmente, questo è paradossale, appunto. Grazie a Filippo Maria Ricci, GR, poi Goffredo da Roma, Erasmo, ci sentiamo subito dopo il giornale radio. Ciao, grazie, sei molto gentile. Tutti convocati. Tutti convocati. Burns making a run. Now Heard. Good dummy, has Best up in front of him. This is Best. Wriggling out space. What a fine save! What a fine shot! Georgie Best! Io sono Best. Io sono Best. Anni senza George Best, lo ricordiamo così. Intanto continuiamo a parlare di Roma e anche di altre cose, perché mi ha raggiunto Marco Bellinazzo. Eccoci, buon pomeriggio. Marco, che sta portando in tournée invece Goal Economy. Sì, ieri eravamo a Palermo all'università, un bel... La sua fatica letteraria, perché non lo sapesse, ma lo sapete. È un bel bagno di folla, tanti ragazzi, e anche a Palermo la domanda, una delle domande principali è stata: dov'è Mr. B? Non avevo dubbi, poi ne parliamo, anche perché... Insomma, a me vengono in mente cattivi pensieri, ma sono solo miei. Erasmo da Roma e Goffredo pure da Roma. Buongiorno Erasmo. Buongiorno. Grazie da Buongiorno. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Grazie, dica. Allora, premetto, non sono un tifoso romanista, ma mi piacerebbe esserlo. Perché? Perché Roma, io vivo a Roma e Roma dà un entusiasmo, però questi episodi ti tolgono un po' di passione, no? Uno si vorrebbe identificare in una squadra valorosa che combatte, e quella di ieri non lo è stata. Io penso che l'atteggiamento di ieri è stato irrispettoso verso i tifosi. E Barcellona è Barcellona, non si discute, entusiasmante, però un po' bisognava giocarsela. Giocarsela non significa andare forsennatamente all'attacco, significa sapere che se c'hai un nemico molto forte, una squadra molto forte, hai una tattica da utilizzare e poi tanto impegno fisico. Non ho visto né l'una né l'altra. Lei è tifoso di chi? Ma, se sono indiscreto. No, guardi, ho 57 anni e allora le dovrei dire Sarti, Burlic, Pacchetti, Bedinguer, Neri, Vicchi, lasciamo perdere. Capito tutto. No, ma secondo me è stato irrispettoso, la partita della Roma, Erasmo, è stata irrispettosa verso i tifosi. Possiamo dire quello che vogliamo, è stata irrispettosa verso se stessi, perché quanto è successo e poi denunciato da Maicon e dallo stesso Florenzi, non da Garcia, che invece non riesce mai a rimproverare o ad essere cattivo, almeno pubblicamente, con la sua squadra. Bene, quanto è successo ieri rischia di avere delle pesanti ripercussioni, torno a ripeterlo, sul cammino interno della Roma, al di là del fatto che batte il Batebosio in casa il 9 di dicembre 2045 e passa il turno, poi vediamo se batte il Batebosio, perché vediamo. Loro non vengono lì in scampagnata, quindi la Roma non se la porta da casa, anche perché eventualmente loro possono ancora correre per entrare in Europa League, e questo e sono soldi anche quelli. Ma soprattutto, cosa succede sulla Roma messa in questo modo dopo, quando dovrà giocare in campionato? Questo è il grande punto interrogativo. Io vedo il Napoli di Berinazzo, a me sembra un'altra cosa, ma vedo la stessa Inter, a me sembra un'altra cosa. Magari l'Inter non bella, però col cavolo che arriva a Barcellona questa Inter e ne prende 6. Sì, io anche ho avuto questa impressione, ovviamente molto ha determinato il risultato già noto dell'altra gara, secondo me, sull'approccio psicologico. Dopodiché c'è modo e modo, certo, no, condivido al 100% quello che dicevi. Detto questo, la Roma sì, dà l'impressione di essere, io penso che sia oggettivamente la squadra più forte dal punto di vista tecnico della Serie A, che resti la favorita numero uno, e però c'è questo aspetto psicologico di una sorta di labilità nel progetto della Roma, come se tanti anni, gli ultimi anni passati dietro la Juventus abbiano un po' tolto vigore, tolto brillantezza a progetto Garcia, a progetto tecnico. Ho più la sensazione invece che non sia stato in grado di compiere il passo successivo. Sì, Garcia. In questo senso, ecco, non dimentichiamo che il suo primo giorno alla Roma fu quello dei giocatori in ginocchio davanti alla curva a chiedere perdono per il derby perso in Coppa Italia. Da lì riuscì a costruire una squadra meravigliosa, perché la prima Roma di Garcia era una squadra onestamente meravigliosa. L'anno scorso ha vissuto una stagione, nonostante il secondo posto, non brillante, pesantemente condizionata dalla sconfitta di Torino e poi dall'1-7 con il Bayern. A me sembra sulla falsa riga di quella dell'anno scorso. La Roma sta tentando quest'anno di, come dire, fare in itinere la transizione post Totti, con Totti che è ancora lì. E questo può creare all'interno degli equilibri di una squadra, che come sappiamo sono estremamente fragili, estremamente delicati, qualche situazione di scompenso, perché l'acquisto di Dzeko serviva a creare un'altra Roma, certo, alternativa e successiva a quella di Totti. Non è detto che Totti, adesso che non si è ancora ritirato, ora sta anche guarendo dall'infortunio, non è detto che la presenza di Totti, oltre a quella di De Rossi, non possa essere in questo momento in qualche modo utile. Goffredo, Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Dica. Volevo dire ai conduttori che siete riusciti a fare un miracolo oggi, perché siete riusciti a farvi andare d'accordo con Telese per la prima volta nella mia vita. Davvero? Sì, veramente, cioè, veramente. No? Lei è per la soluzione, la prima volta che sono d'accordo con Telese. Allora, volevo dire questo, Telese ha dato dei dati di fatto molto importanti, e voi purtroppo sono 40 minuti che parlate male di Garcia. Allora, sicuramente la Roma ieri non ha fatto una bella figura. Allora, poi volevo dire un'altra cosa, scusatemi, arrivo alla conclusione, non capisco come Maicon si permetta di criticare che negli ultimi 7 mesi ha giocato 3 partite, quindi non capisco quale pulpito venga la sua predica. In che senso 3 partite? Beh, nel senso che non ha mai giocato nella Roma ultimamente Maicon, non ha mai giocato perché un po' è stato... Ah, Maicon, non avevo capito il soggetto. No, Maicon, poi le volevo dire un'altra cosa, Presidenta. Dunque... È vero che il primo anno la Roma ha fatto un campionato straordinario, però per gentilezza potreste ricordare che in quel campionato c'era Strootman, Castan e Benatia, che quest'anno non ci sono nella Roma. Certamente. E che purtroppo sono acciaccati. Allora io credo che Garcia, siccome alla fine poi sono infatti quelli che contano, avrà i suoi limiti, non sarà il più grande allenatore del mondo, ma se vediamo negli ultimi anni ha fatto fare alla Roma il massimo dei punti che la Roma ha fatto in tanti campionati. Quindi non è... ecco, buttargli la croce addosso secondo me è un po' ingeneroso. No, ma a me va bene, Goffredo. Ognuno è libero di pensarla come vuole. Certamente aveva Strootman, Benatia, Castan, aveva altri giocatori, aveva Marquinhos, possiamo andare avanti, però non mi sembra che la Roma si sia, al di là della, ovviamente, di una difesa che è da ristrutturare questa, non mi sembra che la Roma per il resto sia particolarmente indebolita, perché un centrocampo, Nangolan non ce l'aveva ad esempio, un centrocampo con Pjanic, Florenzi e Nangolan, io lo prendo subito. Dzeko io come attaccante me lo prendo subito, perché secondo me resta uno dei migliori che sono in giro per l'Europa. Quello che discuto io è l'atteggiamento di una squadra che prende 16 gol in 5 partite di Champions e 15 in 13 di campionato. Con questi numeri non vai da nessuna parte, e non è solo una questione di singoli interpreti, è una questione di approccio, di atteggiamento, come hanno detto gli stessi giocatori. Poi Maicon è vero, è stato a lungo assente per infortunio, secondo me è anche vicino all'essere un ex giocatore se non è già arrivato a quella fase, però è anche uno che ne ha viste tante, che ieri è stato umiliato, bravo Marco, sa come si vince, sa vuol dire un'umiliazione, no? Sa qual è l'atteggiamento giusto, e chiaramente non lo ha visto in queste e probabilmente nemmeno nelle altre partite. La Roma, diciamo, ha come obiettivo quello di vincere il campionato, e le difficoltà della Juve forse hanno ancora di più accentuato questa esigenza, questo obiettivo, ed è chiaro che ora, sai, in Champions, soprattutto quando sai che ti basta battere la squadra probabilmente più sulla carta più debole del girone per passare in una partita in casa, insomma, vai con un altro atteggiamento. Dopodiché c'è a tutto un limite, perdere così non è affatto bello. Perdere così è semplicemente umiliante, ma per tutti quanti, per gli stessi giocatori prima di tutto, ripeto, quelle parole di Maicon sono da leggere in termini di frustrazione. Senti, a me ha colpito un sacco quando ho letto, io sui numeri, voglio dire, quando si parla di così tanti soldi non riesco a mentalizzarli. Leggevo ieri quanto è ricco Mansour, il proprietario di una di 4 squadre, Sheikh Mansour, e sinceramente tu dici, come fai a fare la corsa con gente di questo tipo? Gente per la quale, che spende 400 milioni di euro per una barca, no? Per la sua barca, e poi dici, ne spende 87 per De Bruyne, cosa vuoi che siano? E infatti, non puoi fare la corsa con questi. Non puoi fare la corsa su questi e con questi, e il fair play finanziario dovrebbe porre un limite, che chiaramente il City ha in parte aggirato con tutta una serie di sponsorizzazioni, con l'Etihad Stadium, sponsorizzazioni interne che sono state gonfiate, la UEFA ha punito, ha sanzionato il City, così come il Paris Saint Germain, che è l'altra sponda, diciamo, degli Emirati in Europa. Detto questo, però, diciamo che il City sta anche creando un modello alternativo di gestione calcistica dal punto di vista industriale. Il City ha creato il primo vero gruppo, ce ne sono altri per la verità, ma questo è veramente qualcosa di straordinario per le ambizioni che ha, il primo gruppo calcistico mondiale, sì. Perché prima ha fondato insieme a New York Yankees la squadra del New York City, quindi quella dove gioca Pirlo, tanto sì. Per intenderci, poi ha fondato con un'associazione di Melbourne che si occupa di rugby, una squadra in Australia che fa il campionato americano, il Melbourne City, sì. Poi ha comprato il 20% di Yokohama Marinos, che è una delle squadre più importanti del Giappone, sta valutando l'acquisto di una squadra in Cina o in India, ed è chiaramente questo un modello nuovo. A capo di tutto questo c'è Ferran Soriano, che era il vicepresidente del Barcellona nel 2003, quando il Barcellona sull'orlo del fallimento ha cambiato gestione. Ferran Soriano, che poi ha raccontato tutto questo in un bel libro che si chiama Il pallone non entra mai per caso, ha iniziato la sua corsa. All'epoca il Barcellona fatturava 160 milioni, più o meno quanto l'Inter, oggi il Barcellona fattura oltre 600 milioni, l'Inter più o meno è rimasta 10 anni fa. Detto questo, è una fotografia di un nuovo modello di calcio che dal punto di vista industriale mi piace, non mi piace quando ovviamente si basa sui petrodollari. Beh, sì. E soltanto su una ricchezza, come dire, che viene trasfusa in maniera indiscriminata, perché da questo punto di vista rischia di come dire, falsare, drogare il mercato, in particolare così, il calcio d'altra mercato parte, d'altra parte quando uno ricco vuole investire è anche difficile. Infatti devo dire lo fai con legge regolamentare, è difficile in maniera forse un po' stupida, no? Ma il fatto che il City non riesca a vincere la Champions, venga eliminato quasi sempre nel girone, è una piccola rivincita del calcio giocato. Sì. Ripeto, mi piace il modello City dal punto di vista industriale, non mi piace il modello City da Paperon di Paperoni. Certo, poi c'è anche Florentino Perez che ne spende 883 solo nella seconda parte del suo mandato per vincere una Liga e alzare una Champions League grazie a Carlo Ancelotti, questa è un'altra storia. Però questi qui sono, oggi leggo anche che El Khelaifi, che è l'altro, quello del Paris Saint Germain. Sì, è il presidente del Paris Saint Germain, che in realtà appartiene al Qatar, al fondo diciamo al fondo sovrano del Qatar attraverso il Qatar Sport Investment, dello Sheikh Al Thani. Anche lì parliamo di un tutt'altra realtà, nel senso che Paris Saint Germain prima dell'avvento del 2011 di Al Thani fatturava 100 milioni, oggi viaggia verso i 500 milioni. E questo boom è stato garantito, diciamo, da tutta una serie anche qui di sponsorizzazioni farlocche, sì, che sì, la UEFA sì, ha sanzionato, secondo me, solo in minima parte, che hanno portato il fatturato oltre 500 milioni. È vero anche che il Paris Saint Germain, proprio perché è ricco di campioni, sta anche attirando sponsor veri. Certo, questo è normale. Paris Saint Germain tra l'altro giocherà con quella straordinaria maglietta Jersey di Paris questa sera a Malmo, nella serata di gara per Zlatan Ibrahimovic, che ha regalato alla sua città praticamente la piazza centrale, cioè affittato tra virgolette la piazza centrale di Malmo, dove ha fatto piazzare alle sue spese un maxi schermo, perché 26.000 posti non bastano per in realtà per non è un maxi schermo, ma è la TV di casa di Ibrahimovic che ha fatto portare l'ha fatto portare lì col tir. Ma comunque oggi si legge dal Paris Saint Germain attraverso la stampa inglese questa probabile dal Daily Mirror, non so quanto attendibile fate voi, però si legge questa offerta da 17,5 milioni di euro netti a stagione per Cristiano Ronaldo, che ne prende 17 netti al Real Madrid, quindi 19 e mezzo sono un paio e mezzo in più. Sì, potevano anche arrivare a 20 a questo punto, insomma era sì, più signorile. Ma dai, su perché cosa si può risparmiare sui centesimi, ragazzi? Fabrizio Ancona, buongiorno. Dottor Gento, buongiorno, un pezzo che non chiamavo, grazie della linea che mi dà. Due o tre concetti me li faccia dire, dopo voi li commentate. Allora, una cosa, solo un appunto per Pardo, dico, sto tiki-taka, vuoi dire, alla prossima volta quando inizierà, alle 3 di notte? Vabbè, ma dice a me, no, tutte le volte lo chiedono a lui, ma anche lui che ci può fare? Cioè, non è che un'altra cosa, Sarri, il nuovo piangina del campionato, cioè l'altro anno Garcia era uno sbruffone perché diceva vinceremo lo scudetto, questo è in testa e continua a dire no, noi terzo posto, cioè il nuovo Mazzarri, il nuovo piangina. Va bene, questo li faccio rispondere a Beninazzo, poi la terza... Su Sky, no, è una cosa solo De Sarri, sì. Domenica su Sky ha detto abbiamo un impegno difficilissimo perché giochiamo a mezzogiorno e mezzo. Voglio dire, ma questi sono calciatori, un impegno difficilissimo perché giocava a mezzogiorno e mezzo. Dico, ma nei confronti di chi lavora veramente, no, ci chiama mezzogiorno e mezzo. Ma sì, va bene, va bene. Poi, poi anche Garcia che dice, ma c'era, non si poteva giocare. Ma allora è meglio Garcia campagnato. Che dice vinceremo lo scudetto, mi scusi. E poi beh, Garcia quest'anno però ha cambiato registro. Poi ieri sera il tracollo della Roma, l'ultimo concerto, dimostra la differenza abissale che c'è del calcio italiano. Cioè noi siamo negli ultimi 2-3 anni un livello così basso al di là della finale di Champions. E come si fa ad andare al di là della finale di Champions? Però, perché le squadre italiane in Europa appena prendono un gol vanno subito in affanno, cosa che non succede in Italia. Io la partita della Roma, la Roma dopo il 2-0, come è successo l'altro anno col Bayern Monaco, sono incapaci di reagire. Ma no, perché è capitata la Roma, invece proprio perché è capitata la Roma. Mi sembra che la stagione europea dell'anno scorso, mi riferisco a Champions League ma anche all'Europa League, sia stata direi come minimo soddisfacente. Quest'anno il Napoli è già passato, la Fiorentina vediamo, la Lazio passerà l'anno il turno. Scorso abbiamo avuto una finale di Champions ma anche due semifinaliste in Europa League. Quindi no, adesso che la situazione economicamente sia non proprio vantaggiosa per il calcio italiano, lo sappiamo, c'è bisogno di tante riforme, c'è bisogno di 8 trasmissioni per parlarne. Detto questo, dal punto di vista tecnico abbiamo avuto la fortuna negli ultimi anni che con il materiale tecnico a disposizione siamo riusciti a rifarci un po' rispetto al passato. Il ranking UEFA, anche se non a tutti piace, testimonia in qualche modo questa evoluzione, quindi non sarei così. Sarri piangina, come lo vedi? No, non commento. Credo che Sarri sia un allenatore arrivato al momento giusto e sia un allenatore perfetto per tenere la calma. Tenere lui la calma, per farla tenere alla squadra e soprattutto per farla tenere alla città in un momento così importante, e che non metta le mani avanti, credo, ma tema diciamo su una come dire, tema sull'aspetto della continuità, ecco, sulla possibilità che Napoli possa reggere quel ritmo. Marco, se regge così, ha ragione Pardo quando dice che Napoli vince il campionato con distacco e largo anticipo. Se, perché se in continuiamo momento, così, anch'io non ho dubbi, nel senso che mi sembra veramente la squadra più forte. Detto questo, però, sai, cioè, c'è da mantenere questo ritmo. 220 passaggi di Jorginho, non so se li possa fare tutte le partite, anche se ne fa uno massimo, uno e mezzo. Però sai, no, questo è evidente. Resta il fatto che in questo momento è la miglior squadra d'Italia. Senti, ma a me viene una battuta cattivissima dopo che abbiamo parlato delle ricchezze di questi signori. Ma è possibile che gli unici due che sono un po' così arrivano a Milano? Cioè Toir è arrivato, ha risanato la società, soldi ce li ha messi ma li ha prestati all'Inter, e Mr. B, sul risanato vediamo, parlare per ore, ma lasciamo ma stare l'Inter. Gli unici due che passano per Milano sono messi così, ma fammelo dire. Beh, io penso che quello che è più soldi e si è arrivato a Bologna. Sì. Detto questo, su Mr. B io mi ero ripromesso di non parlarne più finché non ci fossero stati diciamo momenti decisivi, e cioè questo benedetto closing. Si leggo in giro di tutto, insomma, e ascolto di tutto le più svariate ipotesi. Io ovviamente ho dovuto venir meno a questo mio proposito, ho chiamato le persone con cui di solito parlo per Mr. B, ed è difficilissimo perché quando ho seguito la trattativa Inter-Toir c'erano due parti, un venditore e un compratore, e quindi era abbastanza semplice. Qui abbiamo tantissime parti con un compratore preso in totale che non parla, e quindi è difficilissimo riuscire a sapere le cose. Detto questo, non era fissata alcuna data, non c'era alcun closing, quindi il 39 sì, però si parla moltissimo di questo 30 novembre, era stata assolutamente scartata l'idea di fissare qualsiasi data per non fare la brutta figura che già era stata fatta a settembre. L'affare non è che è saltato più volte, è stato sul punto di essere concluso più volte, alla fine è sempre mancato qualcosa, magari anche perché non c'era proprio tutta la volontà da parte di chi cedeva il club di cederlo a certe condizioni. Questa è un'operazione molto complessa perché si sta cedendo la maggioranza, anche se formalmente si cede la minoranza attraverso l'ipotesi della quotazione di cui abbiamo spesso parlato. E quindi che è successo? Che in queste settimane, in questi giorni ci sono tutta una serie di incontri tra Londra e Hong Kong in cui si sta mettendo ancora assieme la cordata, alcuni sono venuti meno, ci sono tanti soggetti che mostrano interesse, che chiamano Mr. B. Chiaramente poi una cosa è mostrare interesse, un'altra cosa è quando si guarda più o meno il progetto, poi certo, mettere la fish o non metterla. Il socio principale dovrà essere comunque un socio cinese, e da questo punto di vista Mr. B, diciamo, sta ancora cercando di far quadrare il cerchio. Ci riuscirà, non ci riuscirà, io non faccio il tifo del Mr. B o meno, io faccio il tifo per quella che dovrebbe essere una soluzione capace di dare ossigeno al Milan. Che sia Mr. B o meno, non ho il minimo interesse, quindi non è che la faccio io la trattativa. Il problema, ripeto, è che, come hai fatto notare tu, chi arriva in Italia purtroppo non si chiama Altani, non si chiama Mansur. Chi è arrivato anche magari non solo a Milano, ma anche magari nella capitale, non ha tutte queste risorse, o comunque non ha scelto di non metterle sul calcio italiano. E di conseguenza ci troviamo a fare i conti con quello che c'è, con investitori nuovi, ma che, come dire, cercano di fare economia e di fare nuovi progetti senza metterci troppi soldi, insomma, usando la leva finanziaria. Non è cattiva come ipotesi, no? Anche i Glazer, gli americani che hanno comprato il Manchester United, lo comprarono a debito, ci fece prestare i soldi dalle squadre, però per fortuna loro sono riusciti, per fortuna, per bravura, a portare il Manchester da 200 a 500 milioni di fatturato, e quindi quei debiti riescono a pagarli. E per noi è un po' più complicato, perché mancano gli stadi, perché mancano politiche commerciali, per tanti motivi. Ma ci manca soprattutto il benedetto sceicco. Grazie, manca Marco Berinazzo. Prendiamo un appuntamento poi per parlare di altri argomenti, come sì, dobbiamo di parlare anche Platini, il primo rosso del Napoli. Il primo rosso del Napoli. Prendiamo un appuntamento a Stretto Giro di Posta. Tanto Platini, sappiamo, ieri chiesta la condanna a morte sportiva, cioè la radiazione. La sentenza arriverà a fine dicembre, avremo tempo e modo di parlarne. Grazie Marco Berinazzi. Grazie, a presto. Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, a Andrea Roccabelli in regia, a Giovanni Melchione in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ma scusi, Sandro da Teramo, mi perdoni tanto, non riusciamo a parlare oggi, scade il tempo, ma domani sì. Bellissimo spettacolo di sport, bravi.